si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Questa è la prima puntata di Si può fare dell'anno nuovo. Abbiamo alle spalle già 12 mesi, diciamo noi, di buone notizie, di nuove tendenze, quelle cose che ci salveranno, quelle cose che in realtà sui giornali non troviamo mai, le nostre buone notizie, perché i giornali sono pieni di crisi economica, paginate e paginate sulla data del voto dalle prossime elezioni. E intanto però cosa succede? Succede che ci sono magari comuni dove si fanno le cose giuste e dove, anche se questo è stato un anno così difficile forse per la politica, che ha dovuto fare un passo indietro con il governo Monti, criticato magari da molti, però che ha ridato forse anche un po' di credibilità alla politica nazionale. Adesso andremo ad elezioni. Noi oggi vogliamo affrontare un po' questo argomento dal nostro punto di vista con un ospite. Sarà una puntata particolare, avremo un ospite in studio, Marco Boschini è qua con noi. Buongiorno Marco. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi, ne avrete già sentito parlare da questi microfoni, un'associazione che fa tantissime cose. Marco, intanto descrivici così in qualche parola che cos'è questa associazione, perché insomma poi gli ascoltatori abituati o meno a sentir parlare di questi argomenti, però poi ripartiamo un attimo dalle basi. Perché un'associazione come questa? Ma il perché è nelle cose della politica italiana. In un paese normale un'associazione come la nostra non esisterebbe. Noi cerchiamo semplicemente di mettere insieme quelle esperienze che a livello locale in tutta Italia, da nord a sud, di destra e di sinistra, cercano di far vedere che si può stare dentro le istituzioni in modo diverso, con concretezza, azione, buonsenso, spirito di servizio, e avendo a cuore il tema della sostenibilità ambientale, che poi si declina nelle scelte della quotidianità delle comunità locali. Questo è un po' il senso dell'associazione. Io dicevo, questo è stato un anno particolare per la politica, perché da una parte sono giunte al culmine alcune delle denunce sui costi della politica, sulla casa, sono usciti dei libri negli anni scorsi, ma adesso sta crescendo un movimento, basta pensare alle percentuali a cui è accreditato Beppe Grillo e il suo Movimento 5 Stelle, che anche molto su questo basa la sua ascesa politica. Dall'altra però abbiamo avuto questa parentesi di governo tecnico che, bene o male, ha un po' sospeso il giudizio anche sulla politica. I politici di professione hanno fatto un passo indietro, si è tornati a parlare dei problemi, le pensioni, il mercato del lavoro, i conti pubblici, affrontati bene, male, questo dal mio punto di vista è secondario, vorrei dire, perché quello che conta è che si è tornati a parlare proprio di queste cose con un approccio appunto un po' più tecnico. Sarà banale dirlo, ma è così. Io sono convinto che la politica oggi sia molto più la ricerca di soluzioni giuste, e che chi poi le deve giudicare, ma sicuramente i cittadini elettori, se le soluzioni prese sono state giuste o sbagliate. Però a volte sono così semplici le cose da fare, così di buon senso, che si vedono a occhio, no? Ogni elettore, ogni cittadino può vedere a occhio nudo se è stata fatta una scelta virtuosa o non virtuosa. Voi siete l'associazione dei comuni virtuosi, ti chiedo un giudizio intanto su questo momento che stiamo vivendo anche dal punto di vista politico. Ma il momento è sicuramente molto complicato e molto difficile. È evidente che se ci vogliamo accontentare rispetto all'attuale governo, sicuramente il passo in avanti è stato la riconquista di un minimo di credibilità delle istituzioni, che precedentemente era veramente arrivata a livelli molto bassi. Detto questo, la prospettiva degli enti locali è una prospettiva molto diversa. Noi percepiamo una situazione che è una situazione drammatica, in cui l'attuale governo non ha fatto altro che aumentare le difficoltà che noi abbiamo tutti i giorni. Io vivo questa e la voglio vivere come una denuncia istituzionale, molto rispettosa delle regole e di tutto quanto, però lo voglio dire, amministrare oggi un comune piccolo, medio piccolo, è molto complicato, e sembra quasi che ci sia un'operazione scientifica nello smontare gli strumenti che servono noi amministratori per dare le risposte della quotidianità ai cittadini, le cose semplici da fare, apparentemente banali, che i cittadini vedono, ma che noi facciamo sempre più fatica a fare perché abbiamo sempre meno risorse, sempre meno possibilità di incidere nella quotidianità e sempre più burocrazia. E questo, diciamo, per quanto riguarda i limiti che vengono dal potere centrale, dal governo, dallo Stato, per quanto riguarda l'azione dei comuni. Però noi oggi cerchiamo invece di vederla sempre in positivo e vedremo una serie di cose che vengono fatte a livello di amministrazione locale, dimostrando che è possibile, si può fare, si può amministrare bene, si possono fare scelte virtuose, naturalmente laddove ci sono delle condizioni che lo consentono. Questo non vuol dire che chi non mette in pratica delle azioni virtuose come quelle che mettete in rete voi sia in malafede o necessariamente sia meno capace di altri amministratori. Semplicemente si creano a volte le condizioni per realizzare queste cose di cui io credo gli ascoltatori abbiano gran voglia, una gran sete di sentir parlare, perché non si può parlare sempre solo di polemiche a livello politico e poi notizie positive, importanti, che incidono sulla vita di tutti noi a volte, e questa è anche un mea culpa in quanto giornalista, faccio parte anch'io di questo della casta, se vuoi, non c'è spazio sui giornali per queste cose. Questa è una riflessione che credo voi facciate anche. Come mai, secondo te? Sì, la facciamo sempre. Quello che io dico sempre è che ovviamente fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, no? Recuperando un vecchio proverbio. E è evidente però che si può fare, nonostante tutto. Qualche giorno fa per il promo del programma, sicuramente. E noi abbiamo salutato qualche giorno fa un sindaco che non era uguale a tutti gli altri, che era Dario Ciappetti, il sindaco di Berlingo, e la sua esperienza, il suo esempio, la testimonianza che anche in un momento difficile come questo, se si vuole, si può fare la differenza. L'esperienza di Berlingo te la racconto in pochi istanti, perché merita. Un comune di 2500 abitanti, avevano nel centro esatto del paese, a poche decine di metri dal campanile e dalla sede municipale, per capirci, una ex cava divenuta negli anni una discarica abusiva di rifiuti tossici. Molti altri amministratori, molti altri cittadini si sarebbero seduti, avrebbero gridato allo scandalo, alla vergogna delle istituzioni, e non avrebbero accettato passivamente questa situazione. Le amministrazioni guidate da Dario Ciappetti invece si sono rimboccate le maniche e hanno trasformato quella ferita aperta nel centro esatto del paese in una straordinaria opportunità di rinascita per la comunità stessa. Oggi su quella buca bonificata, coperta, recuperata alla comunità, c'è una scuola materna, una scuola elementare, una palestra, si sta costruendo la scuola media nuova, c'è una bocciofila, c'è una piazza che fa da cornice completamente ciclopedonale, e tutti questi edifici sono edifici a emissioni zero, perché sono stati pensati, progettati e costruiti secondo i massimi criteri della bioedilizia e dell'efficienza energetica. Questo per dire che anche nelle situazioni apparentemente più incontrovertibili e irrecuperabili, se si vuole, si può cambiare. Ecco, io vorrei il prossimo governo che fosse fatto tutta la gente così, no? Non mi chiederei nemmeno di che partito è. Tra l'altro, qui sveliamo un piccolo particolare, un piccolo segreto, ma non è un segreto, non importa. Di questo primo anno di programma di Si può fare abbiamo ospitato molti sindaci, amministratori, membri di, insomma, politici. A nessuno ho mai chiesto prima, durante o dopo a che partito appartenesse, anche se poi è facile vederlo sui giornali. Ho quasi cercato di far finta di non vedere, perché poi ognuno è spinto, diciamo, a giudicare anche dai propri pregiudizi o giudizi che dà sulla politica. Quindi qua, quello mi sta simpatico, quello no. Io ho sempre cercato di guardare a quello che fanno. Poi dopo, ogni tanto, per curiosità, sono andato a vedere, ma di che partito era questo? E ho scoperto delle belle cose, perché la buona politica è abbastanza trasversale, insomma, questo possiamo dirlo. Allora, però iniziamo anche a parlare un po' dei contenuti che il nostro ospite Marco Boschini qua oggi ci porta in quanto coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi. Allora, fate molte iniziative, molte cose. Prima di tutto, quanti comuni? Poi entreremo piano piano nel dettaglio di tutte le cose. Quanti comuni? Come funziona una rete? E quante sono le cose che fate? Ma ad oggi i comuni iscritti sono 67. Per iscriversi un comune deve compilare un modulo con una richiesta di adesione indirizzata al comitato direttivo, nella quale elenca le cose che ha fatto rispetto a 5 temi: la gestione del territorio, l'impronta ecologica, i rifiuti, la mobilità e i nuovi stili di vita. C'è un direttivo che valuta quella che è questa richiesta, e in caso affermativo, di risposta affermativa, il comune va in consiglio, approva il nostro statuto e il nostro manifesto. Da quel momento comincia a condividere le buone prassi, proprio per fare in modo che che un progetto sperimentato in un comune possa essere preso come modello per altre territorialità. La politica dei comuni virtuosi è una politica trasversale agli schieramenti ed è proprio la nostra una rete istituzionale slegata da qualsiasi logica di appartenenza politica. E le attività che facciamo sono tantissime, proprio per cercare di divulgare e di diffondere il buon senso, dalla scuola di altra amministrazione, corsi di formazione che facciamo in giro per l'Italia, per trasferire la conoscenza da amministratori ad altri amministratori. Questa è una cosa fondamentale, perché assolutamente penso davvero che poi in Italia non c'è, no? una scuola... Non c'è una cosa di questo tipo, nel senso che proprio i docenti sono sindaci, assessori, consiglieri comunali, funzionari del comune che raccontano la propria esperienza diretta a scolari che sono a loro volta sindaci, assessori e consiglieri. E non comunali. È solo una questione di passarsi delle buone idee, a volte è proprio anche una questione invece magari tecnico-procedurale. Come hai fatto a risolvere? Assolutamente, non è soltanto la narrazione di una buona prassi, ma proprio il cercare di metterti nelle condizioni di portarla nel fai tuo prima. Comune. Io ci ho messo un anno perché ho scoperto, esatto, che c'era un bando da qualche parte. Tu, se te lo dico subito, ci, esatto, metti molto meno. E questo è e in un momento come questo, in cui i comuni sono senza risorse, senza possibilità di assumere, senza possibilità di fare formazione, avere degli spazi, dei momenti di confronto e di conforto di questo tipo può fare la differenza per la diffusione di queste buone prassi. E allora, visto che hai citato la scuola di altra amministrazione, dove la R è volutamente messa tra parentesi, tra poco, dopo la prima pausa per quanto riguarda oggi, ci fermiamo un attimo, poi cominciamo a parlare proprio di questo, la scuola di altra amministrazione dell'Associazione dei Comuni Virtuosi. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Vi voglio ricordare, cari ascoltatori, anche che tra qualche giorno saremo più precisi, saremo in grado di darvi i dettagli di questo concorsone che vogliamo fare su questi primi 12 mesi di trasmissione. Insomma, vi riproporremo un po' le storie migliori che sono andate in onda e vi chiediamo di votarle, di sceglierle, di dire la vostra preferita. Si vincono anche dei premi, non costa nulla, non guasta, non fa male. È un modo così anche per capire se siamo sulla strada giusta con un programma che è nuovo nel palinsesto di Radio 24, ha solo qualche mese. E vi ricordo anche i nostri contatti, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, siamo anche su Twitter Si può fare 24, poi c'è sempre la mail si può fare @radio24.it. Oggi in compagnia di Marco Boschini dell'Associazione Comuni Virtuosi, e cerchiamo di ridare così un po' di lustro alla politica nostrana. Parliamo di piccoli e medi comuni, credo che qual è il più grosso? Sono tutti piccoletti più o meno, no? E abbiamo il più piccolo comune a 300 abitanti ed è Villa Verde in provincia di Oristano, il più grande è Capannori, un comune di 46.000 abitanti in provincia di Lucca, la media dei comuni iscritti è tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, che è più o meno la media della gran parte dei comuni italiani. E insomma, non so, questo della dimensione mi viene da pensare che sia un po' un punto focale, no? Perché è più facile forse essere virtuosi quando si è meglio piccoli che non, insomma, penso a un comune come Roma, cioè dare la pagella di comune virtuoso è più impegnativo, insomma. Certo, in realtà ci viene sempre un po' rinfacciata questa, sì, cosa, come se fosse colpa nostra, sì, che siamo amministratori di piccoli comuni, sì. Il problema è che in giro per il mondo, in giro per l'Europa, queste politiche sulla mobilità, sulla gestione del territorio, sull'energia, sui beni comuni in generale, sono sperimentate e praticate in grandi città. Il problema è che in Italia non vengono fatte, non è certo colpa degli amministratori dei piccoli comuni, magari qualche sindaco di una grande città dovrebbe cominciare a cambiare rotta. Ma mi interessa, mi incuriosisce anche un altro aspetto, siccome hai spiegato bene qual è il doppio vincolo che unisce questa rete di comuni, cioè il comune che fa domanda a voi, presentandosi sui temi per voi importanti dal punto di vista della virtuosità, diciamo, del comune, e poi è il comune stesso che vota adottando in consiglio comunale il vostro statuto, quindi ci si lega doppiamente. Ma ricevete domande di grandi comuni che hanno voglia di avere questa patente, che poi può essere una patente anche da mettere in bella vista per far bella figura, oppure proprio vi snobbano da questo punto di vista, proprio perché in Italia la politica è altro, cioè non so, è Alemanno che oltre a fare il sindaco fa dichiarazioni di politica nazionale, o Pisapia la stessa cosa, eccetera. Allora, fino ad oggi noi non abbiamo mai ricevuto una richiesta di ingresso nell'associazione da parte di una grande città. È successo qualche volta che qualche comune abbia partecipato al premio dei comuni virtuosi, che facciamo da 7 anni, che è una delle tante iniziative che portiamo avanti, cercando appunto di essere premiato sulle singole progettualità. Se ci arrivasse una richiesta di questo tipo la valuteremmo, ma certo, è evidente che ad oggi, per quella che è la nostra conoscenza, ci sono delle città italiane che stanno sperimentando di percorsi molto virtuosi su alcune singole tematiche. Non c'è ancora in Italia un comune virtuoso in un grande centro, dove sicuramente è più complicato e difficile, però ad oggi quello che manca di fondo è una cultura della sostenibilità che nei grandi centri fa fatica a venire avanti. Anche solo a pensarci, visto che appunto non fanno neanche domanda. Cominciamo a parlare allora più nel dettaglio delle vostre iniziative. La scuola di altra amministrazione, la prima edizione ci sarà a marzo. Di che si tratta, Marco? Ma come dicevo prima, è un corso di formazione che diventa un momento itinerante in giro per l'Italia, a seconda di dove veniamo chiamati, a seconda dove si attivano delle positività di contaminazione reciproca, in cui alcuni dei nostri sindaci vengono a raccontare per un giorno o due ad altri sindaci ed altri amministratori che cosa hanno fatto su singoli temi. Non limitandosi quindi a trasferire la conoscenza, a narrare una buona prassi, ma proprio entrando nel merito del progetto, entrando nel merito di tutte quelle che sono state le difficoltà dell'esperienza, i problemi, le delibere, come hanno fatto a superare gli ostacoli, dove hanno trovato le risorse, con quali soggetti terzi rispetto all'amministrazione hanno attivato delle collaborazioni. E questa è la formula vincente di questa scuola, perché mette veramente nelle condizioni di incontrarsi, e molto spesso non si capisce chi è il docente e chi è lo scolaro, perché c'è proprio un momento di contaminazione in cui le persone, prima ancora che gli amministratori, si confrontano, si scambiano esperienze, si scambiano idee, e l'associazione si arricchisce moltissimo da un punto di vista. Ecco, ma se io sono il sindaco di una città non virtuosa, non ancora o non del tutto, o che non fa parte dell'associazione Comuni Virtuosi, e però mi interesserebbe venire a sentire un po' di queste buone pratiche, proprio perché voglio scalare la graduatoria delle buone pratiche, cosa posso fare? Posso venire come ospite, osservatore? Assolutamente sì. La scuola, che ha un suo sito, che è scuoladialtraamministrazione.it, che è comunque recuperabile dal sito dei Comuni Virtuosi, comunivirtuosi.org, è una scuola pensata per gli amministratori, ma è pensata anche per i cittadini, è pensata per chi si sta per candidare alla guida o al governo di un territorio, è pensata per un cittadino che semplicemente ha la curiosità di vedere cosa succede in giro per l'Italia, è pensata ovviamente per amministratori che non fanno parte dell'associazione. Molto spesso i corsi sono gratuiti, qualche volta c'è una piccola quota proprio per coprire le spese organizzative. La prima edizione del 2013 sarà il 22 e il 23 marzo al Castello di Padernello in provincia di Brescia, ed è una delle tante creature messe in piedi dal nostro amico Dario Cepetti. Magari la butto lì, cioè se siamo in campagna elettorale e si vota il 24 febbraio, il 22 marzo, un mese dopo, magari qualche candidato potrebbe fare un salto, anche se poi questi non si candidano alla guida di un comune ma di un paese intero, che è anche più importante, potrebbero fare un salto, secondo me non gli farebbe male ad alcuni. Poi magari scopriamo che alcuni dei candidati sono anche membri dell'Associazione Comuni Virtuosi, e questo ci farebbe altro che piacere. Allora, della scuola abbiamo detto, fate molte cose, tra cui anche la festa nazionale dei Comuni Virtuosi. Sì, siamo partiti l'anno scorso, nel 2012, grazie a una collaborazione attivata con il circolo fuori orario di Taneto di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, e abbiamo confermato, e quindi anche il 25 e 26 maggio 2013 saremo a Taneto di Gattatico per la seconda edizione. La festa è un altro momento ovviamente conviviale, prima di tutto, in cui i comuni si incontrano, in cui le comunità si mettono in mostra, in un momento in cui ci saranno presentazioni di libri, concerti, spettacoli, dibattiti, quindi sicuramente cercheremo di sollecitare i nuovi governanti che usciranno dalle prossime elezioni, per avvicinarle ai nostri temi. Parteciperanno tanti comuni, ovviamente uno dei comuni più importanti della nostra rete, Capannori, porterà un po' il capofila, possiamo dire così, Capannori, che cui si è occupato Report insomma, siete riusciti poi, tramite anche le esperienze in particolare, non solo di Capannori, ma voglio dire, a bucare un po' anche quel muro di cui parlavamo prima, il muro dell'indifferenza, dell'informazione. Certo, Report è un programma particolare, purtroppo, perché sarebbe bello che non fosse l'unico, no? Non è l'unico in realtà, però è diciamo, a livello di grande informazione, è forse uno dei pochi. Dicevamo Capannori, allora, visto che li abbiamo sentiti qualche settimana fa, il sindaco di Capannori, anche noi Giorgio del Ghingaro, perché erano appena da qualche giorno giunti a compimento alcuni dei progetti realizzati, tenetevi forte, perché insomma, chi conosce la realtà di Capannori sa che ne pensano, ne fanno una e ne pensano 100. In questo caso era l'esperienza del bilancio partecipativo, cioè hanno messo a disposizione della comunità un montante, alcune centinaia di migliaia di euro, se non ricordo male, adesso poi 400.000. quanto? 400.000. 400.000, tu lo sai ovviamente molto meglio di me, da far decidere alle persone, agli abitanti, insomma, della città, come investirle. Hanno fatto un sondaggio tra le persone, escludendo tra l'altro quelli che il sindaco del Ghingaro definiva i professionisti della partecipazione, cioè associazioni, proprio volevano sentire la gente, quella con la doppia G. Cosa ci fareste con questi soldi in un comune di 45.000 abitanti? È venuto fuori naturalmente la cosa che meno ti aspetti, cioè investire nel futuro, la scuola. Tutti avrebbero detto la strada, il marciapiede. No, invece quando ci si mette intorno a un tavolo a discutere seriamente vengono fuori le tematiche serie. Almeno a me questa cosa ha fatto sorridere. Allora sentiamo un piccolo passaggio dell'intervista e poi la commentiamo di nuovo con il nostro ospite. Sentiamo il sindaco di Capannori. Con questi soldi sono state migliorate le scuole, sono stati fatti dei progetti ad hoc per alcuni istituti comprensivi. È stato un progetto molto bello perché hanno aderito tanti tanti cittadini. Noi abbiamo selezionato tra i nostri 46.000 cittadini 80 tramite un'azienda specializzata, 40 donne e 40 uomini, pescandoli assolutamente a caso nelle 40 frazioni del nostro comune e abbiamo privilegiato naturalmente i giovani e c'era una rappresentanza anche degli immigrati, delle donne e degli uomini che ci vengono a trovare a Capanna. Non abbiamo accolto, diciamo così, in questo gruppone di 80 persone né politici né coloro che per mestiere in qualche modo fanno appunto partecipazione, per cui erano cittadini normalissimi, quello della porta accanto, il vicino della porta accanto, che decideva appunto del bilancio, di una parte del bilancio del comune di E Capanna. cosa hanno scelto? Allora, scuole, in particolare nella circoscrizione 1 si è scelto di ristrutturare la scuola con un progetto che si chiama Scuola Colorata. Nella circoscrizione 2 è uno spazio per giocare, è stato costruito uno spazio per giocare all'aperto per i bambini. Nella circoscrizione 3 si è privilegiato il giardino, quindi la costruzione di un giardino nuovo nella scuola. E la circoscrizione 4 alcune attività inerenti sempre l'attività educativa. E questo era il sindaco di Capannori che spiegava punto per punto i quattro progetti che sono stati realizzati o che stanno realizzando grazie alle scelte dei cittadini con questa esperienza di bilancio partecipativo. Faccio Marco l'avvocato del diavolo. Cosa sono? Iniziative anche un po' così demagogiche, vi do le briciole da spendere, cari cittadini, e poi il resto ce lo teniamo e ce lo giochiamo noi? Oppure no, sicuramente no, perché Capannori è membro della vostra comunità, quindi della vostra associazione, ovviamente lo difenderai, ma più che a Capannori, mi riferisco in generale a esperienze di questo tipo che a volte possono correre il rischio di essere interpretate così, oppure no? Allora, ci può essere appunto questa disillusione che la vediamo nelle comunità locali, che poi ci porta da cittadini a dire sono tutti uguali, tutta casta, tutto privilegio, non funziona nulla. È altrettanto vero però che se vogliamo invertire la rotta da qualche parte bisogna iniziare. L'esperienza di Capannori è particolarmente significativa perché è il più importante processo partecipativo sperimentato in una comunità così grande, perché un conto è fare partecipazione in un comune di 2.000 abitanti, un conto è farla in un comune di 46.000 con 40 frazioni, con una complessità territoriale molto, molto elevata. E il processo partecipativo, che si chiama Dire, Fare, Partecipare, è iniziato l'anno scorso. Quest'anno hanno aggiunto altri 100.000 euro, quindi sono 500.000 gli euro che vengono messi a disposizione. E fare partecipazione è una cosa molto complicata, perché un conto è avere dei cittadini che al bar davanti alla stazione del caffè dicono, si lamentano, gli allenatori della nazionale o che si lamentano del fatto che non funziona nulla, che c'è da cambiare tutto, e che però poi se ne guardano bene dal dare il proprio contributo per cambiare le cose. Un conto è avere un'amministrazione che si mette in gioco, dice va bene, ok, abbiamo una complessità da gestire, condividiamo alcune di queste scelte e mettiamo sul tavolo delle risorse da spendere insieme. Questo è un formidabile cambio di passo, che costringe i cittadini lamentosi a mettersi in gioco con la propria responsabilità di cittadini, perché è facile lamentarsi, è molto più complicato invece ricominciare a metterci la faccia, ricominciare con umiltà e con concretezza a riprendersi i propri diritti, che diventano automaticamente dei doveri. E la partecipazione è uno di questi strumenti che va riconquistata ogni volta, rimessa in discussione. L'esperienza di Capannori è un'esperienza che può non necessariamente funzionare allo stesso modo da un'altra realtà, ma che è la dimostrazione che si può, volendo, fare anche questo tipo di processo. E tra l'altro, insomma, 400.000 euro quest'anno, 500 l'anno prossimo, qualcuno potrà dire, i soldi disillusi di cui parlavi tu, vabbè, ma sono pochi, non sono queste le cifre che contano. Io a lui, come a altri sindaci che hanno fatto scelte di questo tipo, ho detto, beh, però intanto c'è chi non lo fa e chi lo fa. Voi lo fate, lo state facendo, e questa è una differenza fondamentale, un po' come il discorso sul cittadino lamentoso che poi al momento della proposta deve fare uno scatto di passo, e progetti come questo di Capannori sicuramente quantomeno hanno il merito, oltre a realizzare 4 progetti importanti, di smuovere le acque in questo senso. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Puntata particolare oggi di Si può fare, perché insomma siamo all'inizio dell'anno, tiriamo un attimo il fiato, cerchiamo di guardare un po' a cosa ci aspetta quest'anno, soprattutto sul fronte dei comuni, della politica virtuosa. Insomma, se ci state ascoltando già da prima sapete di cosa stiamo parlando, con Marco Boschini qua in studio con noi, il coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi. Marco, avete anche un premio che serve proprio ogni anno per mettere a fuoco quelle che sono le realtà migliori, anche in modo per dare un incentivo un po' ai sindaci e agli amministratori che fanno parte di questa rete di quasi 70 comuni. Non so se vuoi dire due parole anche su questo, qual è stata l'ultima realtà premiata e cosa andiamo incontro quest'anno. Allora, il premio dei Comuni Virtuosi è nato 7 anni fa ed è un premio che ha proprio lo scopo di uscire dai confini dell'associazione e di individuare, di scovare, perché poi si tratta di questo, quelle esperienze che in giro per l'Italia si stanno facendo appunto all'insaputa più o meno di tutti, e spesso anche delle comunità locali in cui vengono sperimentate, perché un altro grande problema degli amministratori dei piccoli comuni è che sei talmente impegnato nella quotidianità, è talmente travolto dagli eventi, dalle emergenze, dalle difficoltà, che non hai certamente il tempo, la serenità, la lucidità di raccontare quello che stai facendo e di far uscire quindi dalla sede municipale quello che tu stai portando avanti. Quindi il premio ha lo scopo anno per anno di raccontare quello che succede in giro per l'Italia secondo i 5 temi che sono quelli che ho elencato prima, che sono un po' le nostre pietre miliari. Ricordiamo, già che ci siamo, visto la gestione del territorio, l'impronta ecologica, i rifiuti, la mobilità e i nuovi stili di vita. Okay. Per ognuno di questi noi individuiamo i comuni che nell'anno di candidatura hanno presentato le progettualità migliori, più incisive e anche più originali, e la giuria, che è composta in parte dal comitato direttivo, in parte da collaboratori, giornalisti, esperti del settore, cerchiamo di individuare queste esperienze. Ci spostiamo, ogni anno individuiamo un comune in cui andare a fare la cerimonia di premiazione, che diventa anche quella un'occasione di convivialità e di confronto. Esatto. Non so, quindi è un modo anche per allargare la rete. A quel che ho capito, il premio non va a chi è già virtuoso, ma a chi aspira ad entrare in qualche modo nella rete. Sì, poi ogni anno possono partecipare ovviamente anche comuni iscritti, però diciamo che tendenzialmente è uno strumento che serve proprio per aprire la rete, scoprire, esatto, nuove eccellenze. Però ecco, parlando di tutto questo, ho capito dalle tue parole inizialmente che tutto questo sforzo che viene fatto a livello di comunità locali, di sindaci, di singole persone, di giunte, di buone prassi che passano a livello di, insomma, di sostenibilità, ma non solo, insomma, avrebbero bisogno anche un po' di una spinta, di un sostegno. Manca a farla apposta, si finisce sempre lì da parte del sistema nazionale, del sistema paese, quindi del governo, di chi fa le leggi, del Parlamento. Immagino per esempio che potrebbe essere gradito un sistema di incentivi molto, molto mirati, molto pensati proprio su queste pratiche che poi ci portano a vivere meglio. Questa è una richiesta, una denuncia, un'aspirazione, una condizione. Che cos'è questo bisogno, diciamo, di lavorare in partnership con Roma, inevitabile, cosa che forse invece voi soffrite un po', patite un po'? Sì, a distanza di 8 anni dalla nascita di questa creatura, questa piccola creatura che è Comuni Virtuosi, quello che mi sento di dire, andando in giro per l'Italia avanti e indietro, è che siamo arrivati a un punto in cui abbiamo la necessità di avere le spalle un po' più coperte. Questa sorta di esortazione, questa lettera in ritardo al Babbo Natale della politica può essere questa. Cioè, quello che noi chiediamo è che non ci siano più delle esperienze virtuose che vengono fatte nonostante le leggi, nonostante il governo centrale, nonostante una situazione che è veramente drammatica vista dall'interno. Io faccio l'amministratore da 8 anni, sono il mio secondo e ultimo mandato da amministratore, e rispetto a 8 anni fa, quando sono entrato, il mondo è veramente cambiato. Cioè, noi oggi facciamo i passacarte, mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini e trasferiamo tutte queste risorse al governo centrale. Il federalismo è stato attuato al contrario di quello che era stato detto. Quindi noi oggi vogliamo poter dire e poter contare su un governo centrale che premia quel sindaco che smette di cementificare il territorio e lo premia con delle risorse in più. Vogliamo poter contare su delle leggi. Questa cosa, per esempio, che hai detto, questo esempio che hai fatto è il primo, forse non a caso. Vorrei che anche gli ascoltatori si fermassero un attimo a riflettere su questo, perché questa è veramente una cosa incredibile. Ogni volta che c'è una pioggia, ogni volta che c'è una pioggia un po' più forte, si fa la conta dei disastri, dei danni e quanto poi si spende in termini di emergenza. Adesso si comincia a ragionare in questi termini e dire, beh, sarebbe il caso forse di pensarci prima. Allora, il tema della cementificazione, siccome su questo si stanno muovendo un po' di realtà, c'è stato qualche giorno fa il Consiglio Comunale di Parma che ha votato un ordine del giorno, so che la Regione Veneto, il governatore Zaia, sta cercando anche gli strumenti legali per uscire da questo vincolo, perché sono anche diritti di costruzione già acquisiti negli anni. È un tema fondamentale. C'è stata l'iniziativa del ministro Catania, che ha provato, prima del crollo del governo, a far passare un disegno di legge contro la cementificazione del suolo, un tema di cui non parla assolutamente nessuno. Tu dici almeno che quando i singoli comuni fanno qualcosa ci sia un riconoscimento. Marco. E se ne parla sicuramente più di prima, più di qualche anno fa, però si continua a cementificare nel frattempo e si continua soprattutto a fare delle varianti urbanistiche che trasformano terreno agricolo in terreno edificabile, e questa cosa deve finire. Cioè, noi dobbiamo arrivare ad avere una moratoria che a livello nazionale dall'alto faccia cadere a pioggia sulle amministrazioni comunali questa scelta, perché è vero che il mercato è fermo, è vero che c'è la crisi, è vero, è tutto vero, però io continuo a vedere consigli comunali che approvano delle varianti urbanistiche. Questa anche perché è una delle risposte economiche più banali alla crisi che danno molti comuni, perché sì, in crisi economica pura vendono follia. Sostanzialmente l'edificabilità vendono in cambio di risorse. Vendono il futuro delle comunità, perché il terreno poi trasformato da agricolo in edificabile è un terreno che non si può più recuperare. Siccome noi non mangiamo cemento, dobbiamo cominciare a capire che bisogna andare in un'altra direzione. E la stessa cosa vale per i rifiuti. Se un comune è all'80% di raccolta differenziata ed è quindi ben al di sopra del 65% imposto per legge, questo comune deve essere premiato. Noi oggi non succede nulla. Se uno va oltre i limiti non ci sono premi. Se un comune oggi non raggiunge il 65% di raccolta differenziata, che è imposto per legge, viene addirittura premiato nella sostanza. Se un comune va in default, c'è qualcuno che arriva, gli mette un commissario e gli dà le risorse per andare avanti. Cioè, siamo esattamente all'opposto. Al contrario. I comuni virtuosi vengono boicottati, nella migliore delle ipotesi ignorati, i comuni invece che fanno tutt'altro vengono sostanzialmente sostenuti. Ecco, bisogna che questa cosa cambi. Bisogna che il 2013 diventi, da questo punto di vista, un passaggio molto importante. Sentiamo un'altra testimonianza che ha a che fare con quello di cui stiamo parlando oggi con Marco. Abbiamo intervistato nel corso delle puntate scorse un politico, ma in un piccolo comune a Gallarate, alle porte di Milano, un eletto, presidente della commissione lavori pubblici del comune di Gallarate, che ci ha raccontato, proprio nel giorno in cui lo stavano facendo, di questa convenzione firmata tra il comune e la scuola per la manutenzione ordinaria, non quella straordinaria, della scuola, fatta da chi? Da lui stesso, i genitori della scuola, anche i bambini a giocare, probabilmente, non credo a spennellare, e forse anche qualche insegnante. Insomma, un modo per arrangiarsi, per metterci una toppa, gli avevo detto, però anche un modo per imboccarsi le maniche e anche per trovare delle vie d'uscita dai problemi che ci sono. In questo caso una banale convenzione tra un'associazione di genitori e la scuola, anche questa è una piccola buona pratica, sentiamo. Veramente vorrei farle vedere qui in questo momento, sono proprio insieme ai genitori, stiamo riverniciando la cancellata esterna del plesso di Via Madonna in Campagna, siamo qui in mezzo a pennelli, carta vetro, insomma attrezzi, arnesi di ogni genere e tipo, forniti con i materiali forniti dal comune grazie proprio a questa convenzione di cui parlava. Insomma, vi state anche divertendo, occhio al lavoro minorile, non esagerate. Di che scuola stiamo parlando, di che livello? E questo plesso scolastico comprende la scuola dell'infanzia, la scuola materna e la scuola primaria. O quindi escludo che i bambini stiano, se non giocando con i colori, fossero le scuole medie, già si potrebbe cominciare a ragionare. I genitori invece sì, protagonisti in prima persona di questo progetto, dica in che cosa consiste? Sì, è molto semplice, cioè il percorso che è stato intrapreso ha seguito praticamente diverse fasi di analisi, diciamo, degli interventi necessari da fare, visto che c'era un comitato di genitori decisamente coeso e motivato. E cosa è successo? A un certo punto si è detto proprio, bene, come attivare però questi genitori? La presidentessa dell'associazione ha avuto un'ottima idea, ha costituito un'associazione attivando anche due assicurazioni, un RCA e una contro gli infortuni, in modo che ogni iscritto che è presente oggi a lavorare, sì, che lavorerà in futuro, avrà anche una copertura assicurativa per danni. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, quello che avete sentito era Ivano Ventimiglia, il presidente della Commissione Lavori Pubblici del piccolo comune, insomma piccolo, di Gallarate, alle porte di Milano, alle prese con un'esperienza di partecipazione, questa convenzione firmata con la scuola per la manutenzione. Insomma, una delle tante iniziative, magari lui si sarà sentito e dice, ma io questa intervista l'ho fatta mesi fa. Stiamo risentendo alcuni passaggi di Si può fare di quest'anno in compagnia di Marco Boschini, dell'associazione Comuni Virtuosi, col quale stiamo proprio discutendo di questo, di come si fa ad essere virtuosi. A volte, Marco, proprio bisogna partire dalle cose piccole, come in questo caso, molto molto piccole iniziative, ci si mette in ballo. Io credo che i bambini che hanno partecipato a quel sabato pomeriggio se lo ricorderanno per tutta la vita, di avere imbiancato la loro scuola, perché sono quelle cose che ti restano impresse. Quindi davvero a volte il passo per fare grandi cose è un piccolo passo. Assolutamente sì, le cose in questo momento sembrano molto difficili, molto complicate e non si vedono grandi vie d'uscita. In realtà le vie d'uscita ci sono e dipende da noi cominciare ad imboccarle. Io trovo questa esperienza, questa piccola esperienza, un'esperienza molto grande in realtà. Ascoltando la voce dell'assessore ho sentito una luce nella sua testimonianza, ed è la luce di una persona normale che probabilmente non fa, io non lo conosco, non so neanche chi sia, però ho intuito quella cosa che intuisco spesso quando incontro amministratori virtuosi. Perché sono tanti anni che tu ti occupi proprio di questo. Esatto, e le persone che conosco sono persone appunto normali, molto, molto a contatto con la realtà di tutti noi cittadini che vivono nelle comunità e che dedicano parte del proprio tempo libero per la comunità stessa, a tempo determinato, quindi non pensando di fare chissà quale carriera politica, peraltro cosa assolutamente legittima. vittima se fatta in modo onesto, ma appunto mettono a disposizione le loro idee, le loro emozioni, la loro voglia di contaminare la propria quotidianità condividendo le scelte con gli altri. I cambiamenti però passano da ognuno di noi, cioè quello che io dico sempre è che noi dobbiamo diventare sindaci di noi stessi. Cioè, se anche il nostro sindaco non funziona, se la politica fa schifo, se il mondo sta andando a catafascio, se vogliamo cambiare le cose dobbiamo cominciare a cambiarle noi, proprio perché ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va. Se invece ci limitiamo a dire che fa tutto schifo e ci accontentiamo, tra virgolette, di fare in modo che stiamo bene noi e la nostra ristretta cerchia parentale, amicale, le cose sicuramente non cambieranno. Queste testimonianze, come le molte altre che io racconto e che raccolgo andando in giro per l'Italia, dicono che invece si può cambiare. E ce ne sono veramente a centinaia, nelle scelte che tutti noi facciamo, spesso inconsapevolmente, tutti i giorni. Parlavi del fatto di essere amministratori part-time. Questa è una scelta che chi vive in un piccolo comune probabilmente conosce, sa. Forse è meno nota a chi vive in grande città o legge i giornali o guarda la televisione ed è abituato a sentir parlare appunto di politica. Pensiamo al sindaco di Firenze, Renzi, è stato criticato perché giustamente durante la campagna per le primarie del Partito Democratico ha potuto fare un po' meno il sindaco perché doveva far quello. Però ci sono posti invece dove fare il sindaco part-time è normale anche non prendere lo stipendio, come accade, e questa è un'altra piccola testimonianza che andiamo a sentire a Lagnasco. Siamo in Piemonte e questo è Ernesto Testa. Sentite anche qua una testimonianza veramente di come la politica possa essere davvero fatta in spirito di servizio. Uno poi si domanda anche perché allora uno lo fa, perché a un certo punto sembra quasi una scelta, non so, di una vocazione per chi è lontano da queste cose, difficile addirittura da capire. C'è uno che non solo non si vuole arricchire, ma rinuncia allo stipendio, una cosa da pazzi sembra quasi, invece non è così. Sentiamo. Siamo il sottoscritto, tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza, quindi siamo 9 persone che abbiamo deciso già prima delle elezioni di lavorare eventualmente poi per l'interesse del comune senza ricevere il compenso. Siamo un comune piccolo appunto, quindi non è che dobbiamo dedicarci il 100% del tempo, comunque diciamo che la mia media è attorno al 30-40%, perché da sempre sono convinto, anche per già altri impegni in anni precedenti, sì, che se ognuno di noi fa il suo pezzo di attività, certamente riusciamo a andare avanti e fare le cose come si dovrebbe per bene. La scelta che abbiamo fatto è per riuscire ogni anno a risparmiare all'incirca 25.000 euro. Noi nel 2011 abbiamo realizzato la base di un impianto di videosorveglianza qui in collegamento Wi-Fi, quindi 4 telecamere che riprendono i punti più importanti pubblici del paese, per questioni di sicurezza ovviamente. Nel 2010 per esempio abbiamo realizzato la postazione di un nuovo bagno pubblico in un'area dove c'è il parcheggio per autotreni, per il trasporto della frutta. Noi siamo un paese, diciamo, al centro della agricoltura piemontese. Insomma, a me mi ha convinto il sindaco Testa, perché lui dice, insomma, io faccio l'imprenditore, non ho bisogno di guadagnare di più, continuo a fare il mio lavoro di imprenditore perché il sindaco lo faccio part time, un piccolo comune, così risparmiamo dei soldi che mettiamo a budget per fare dei piccoli progetti. Queste sono scelte condivise con tutta la giunta, con la cittadinanza, e sono anche scelte che poi creano un circolo virtuoso, perché ovviamente a sentir parlare così, a vedere agire così, è più difficile poi fare quello che dicevi tu prima, Marco, il cittadino lamentoso, che perché come fai a lamentarti di un sindaco così? È davvero difficile. Però visto che ci avviciniamo un po' anche alla chiusura di questa ora insieme a Marco Boschini, coordinatore dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, facciamo anche qualche esempio in più di quello che abbiamo fatto fino adesso. Un esempio bello, nuovo, che abbiamo scoperto con l'edizione 2012 del Premio dei Comuni Virtuosi è quello del comune di San Vito di Leguzzano, in provincia di Vicenza, che si è inventato questo progetto che si chiama Impronta Culturale, che usa lo strumento della partecipazione per fare cultura e per quindi mettere insieme un contenitore sostanzialmente di eventi, iniziative, corsi che in parte venivano già fatte all'interno all'interno della comunità, da associazioni, gruppi, dallo stesso comune, ma che erano slegati, sporadici, non avevano un filo conduttore. Quindi il comune non ha fatto altro che organizzare questa cosa attraverso un percorso partecipativo, cercando di attingere alle giovani generazioni, quindi chiedendo la partecipazione attiva di interi pezzi di comunità che spesso non partecipano, che spesso non sanno neanche cos'è un comune, a cosa serve, come funziona, chiedendo loro di contribuire all'ideazione e alla programmazione degli eventi culturali di quel territorio. Da questo appunto è scaturito un progetto che si chiama Impronta Culturale, che oggi vede coinvolte veramente tantissime realtà e tantissime famiglie della piccola comunità di San Vito di Leguzzano, e che ha anche come aspetto originale e simpatico questa sorta di carta di credito culturale, per cui i cittadini ogni volta che partecipano a un evento, a un'iniziativa, acquisiscono dei punti solo per il fatto di aver fatto comunità partecipando, condividendo queste cose, che poi possono utilizzare per avere l'ingresso gratuito in piscina, cioè più libro. Si va, più si partecipa e più si è spinti a partecipare, più si è spinti a partecipare più se ne fa, e quindi è una cosa che si autoalimenta ed è la dimostrazione che spesso le esperienze virtuose non hanno bisogno di grandi risorse, ma hanno bisogno di persone, amministratori e cittadini che si mettono in gioco in modo concreto. E questa è una delle tante esperienze, ce ne sarebbero veramente da raccontare, e sempre su questa dimensione medio-piccola, perché è evidente che la facilità, no, che c'è nel creare queste relazioni, perché queste buone pratiche spesso nascono proprio nella vicinanza, nelle relazioni, e questa ultima cosa di cui ci parlavi ne è ancora di più la dimostrazione. Qualche altra cosa, sempre per ingolosirci? Un altro progetto che è stato presentato dal comune di Villaverde in provincia di Oristano, che è il nostro comune più piccolo, è un altro progetto che dimostra ancora una volta quanto si riesca a fare nelle situazioni più difficili. Il territorio di Villaverde era stato interessato da un incendio devastante che aveva veramente bruciato un pezzo di comunità, nel senso un bosco che era proprio insisteva nel territorio del comune di Villaverde. Le istituzioni sovraordinate sostanzialmente hanno abbandonato quel comune e quella situazione. Il comune quindi si è dovuto inventare delle strade per ricominciare a risolvere questa situazione, e una delle cose che hanno fatto è questa sorta di rifugio nel centro esatto del bosco ferito dall'incendio di 3 anni fa, che è diventato una sorta di luogo multimediale per ricordare quello che è successo, per rappresentare quella che è la natura che insiste in quel pezzo di territorio, cercando appunto di avvicinarlo alla comunità locale. Quindi anche qui, come nel caso di Berlingo, una situazione apparentemente irrecuperabile che diventa invece un investimento nel futuro, un cercare in tutti i modi di recuperare qualcosa che apparentemente non può essere recuperato. Siamo quasi in chiusura, non so se c'è qualche altra storia, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, qualche altro racconto, perché insomma basta leggere e andare sui blog, sui siti che hai citato, ci sono anche dei libri, fra l'altro scritti anche da te, insomma, quindi e mette davvero la voglia di entrare anche un po' in questa rete, io credo, se facessi l'amministratore da qualche parte. Qualche altro piccolo racconto, Marco? Ma un'altra piccola storia è la storia del comune di Camigliano in provincia di Caserta, un comune che da qualche anno sta dimostrando che si può fare un'ottima raccolta differenziata anche al sud, raggiungendo risultati molto importanti. Oggi sono intorno al 70% di raccolta differenziata, soprattutto progetti legati alla riduzione della produzione dei rifiuti nei confronti dei cittadini, quindi invogliandoli con ecomonete, cercando di fare il bancomat dell'alluminio, cercando di stimolare anche la voglia di mettersi in gioco da parte della comunità. È una piccolissima esperienza che dimostra che anche qui, volendo, si può cambiare se c'è la volontà degli amministratori e la fantasia, cose che spesso oggi con la certo, politica guardando quello fare. Che è successo in Campania e a Napoli in particolare, sembra che questo non basti, la volontà, no? Però lì c'è poi un salto di qualità, perché il tema dei rifiuti sarà sicuramente anche un po' il tema del tema del presente, sarà sicuramente il tema del futuro. Assolutamente sì. però chi segue le pratiche dell'Associazione dei Comuni Virtuosi Italiani, beh, sicuramente si troverà avvantaggiato su questo. Io ti ringrazio, Marco Boschini, è stato un piacere averti in studio qua con noi, ti risentiremo sicuramente più avanti, perché una anche voi ne fate, 100 ne pensate. È tutto per questa puntata speciale, io ringrazio Peter Pescapa in regia, Franco Piantanida in redazione, anche da me Alessio Maurizi l'augurio così di un buon inizio di anno, seguendo le nostre piccole grandi storie virtuose. Auguri a tutti, a presto.